Radio Città Fujiko e l'Università Primo Levi presentano Guida all'ascolto della musica classica, tre secoli di creatività musicale. A cura del professor Stefano Malferrari. Vorrei provare ad arrampicarmi su un argomento che è molto delicato, soprattutto perché sembra di andare in qualche modo a toccare il gusto personale di ogni singolo soggetto. Ma è qual è la differenza tra la musica, chiamiamola d'arte o musica classica, e la musica leggera. Ma non la musica leggera intesa come canzonetta, ma quella musica leggera o popolare che si spaccia per musica d'arte. Però per fare questo comincio con un brano che conoscete tutti. È un brano di Beethoven che è stato scritto nel 1810, aveva un titolo che non è quello per il quale è conosciuto, e cioè Für Elise, per Elise. Comincio con questo brano perché quando da bambino mio padre mi fece l'abbonamento al teatro comunale per una serie meravigliosa di concerti, che furono il ciclo delle 32 sonate di Beethoven con una serie di pianisti straordinari. Maurizio Pollini inaugurò la stagione, poi ci fu John Ogden, pianista inglese fantastico, ormai morto da una decina d'anni almeno. E poi pianisti storici, Paul Baumgartner, che probabilmente non è tra i più popolari, ma uno dei grandi maestri del repertorio viennese, Mozart, Schubert, Beethoven. Dino Ciani, pianista strepitoso, morto a poco più di 30 anni. Uno di questi pianisti, al termine proprio della 111, come primo bis, fece per Elisa. E devo dire che rimasi sconcertato, ma totalmente sconcertato. Era un brano che avevo studiato soltanto pochissimi anni prima. Era un brano più o meno legato allo studio fatto da bambini. E tra l'altro talmente popolare che era come se un pianista in grande carriera proponesse, ma già forse il sole mio è già anche troppo profondo in rapporto a quello che era l'impressione avuta da Per Elisa. Ecco, ora vi faccio sentire Per Elisa e poi ne parliamo. Talmente popolari da perdere il loro contenuto reale. Diventano dei brani che si ascoltano così, senza troppo pensare a quello che portano al loro interno. Diventano quasi dei brani da ascoltare distrattamente, brani che in qualche modo conosciamo, ma proprio perché li conosciamo non vi prestiamo troppa attenzione. Ecco, questo brano, un brano che Beethoven stesso ha praticamente messo nelle raccolte definite bagatelle, quelle cose di poca importanza. Beethoven ne ha pubblicate diverse raccolte e sono tutt'altro che brani senza importanza. Però all'interno c'è anche questo brano pubblicato poi in realtà con Beethoven defunto. Il titolo originale non era Für Elise, per Elisa, era Für Therese, per Teresa. Teresa era Teresa Malfatti, residente a Vienna. Il nonno di Teresa Malfatti era un napoletano trapiantato a Vienna ed era il medico di Beethoven. Beethoven, allora quarantenne, si innamorò o comunque immaginò di chiedere in sposa Teresa Malfatti, che allora era ventenne, e questa proposta venne rifiutata. C'è chi dice che forse potesse essere l'amata immortale a cui Beethoven scrive nelle sue tre lettere rimaste famose proprio perché non si conosce la destinataria. E in ogni caso un titolo che Beethoven modificò forse per pudore, però un brano che racchiude in pochi minuti tre elementi. Intanto è un piccolo rondò. Sapete che il rondò è quella forma ritornellata dove una struttura, la struttura A, ritorna più volte. Per ricordarsela meglio, gli studenti di conservatorio pensano A, B, A, B, cioè A, B, A, una parte C e poi di nuovo A, B, A. Questo è il rondò completo. Il rondò più piccolo è semplicemente A, B, C. Abbiamo questo piccolo rondò con un tema A che ritorna tre volte ed è un tema che potremmo immaginare preso dai clavicembalisti napoletani, da Alessandro o Domenico Scarlatti. È una melodia che possiamo immaginare scritta, anzi, una melodia. Non è una melodia. Se voi pensate a questo preludio, non ha una melodia. In qualche modo il nostro orecchio recepisce qualcosa, percepisce qualcosa sul quale aggrapparsi, ma non c'è una melodia. A parte Gounod, che appunto dopo ha scritto una melodia sopra, ma basandosi su delle note che sono già presenti all'interno del brano di Bach. Questo brano di Beethoven presenta una serie di arpeggi che, a parte le note iniziali, che sono soltanto un piccolo trillo lento, il trillo è la ripetizione di due note vicine, che va a finire in una serie di arpeggi. Percepiamo fondamentalmente solo la nota di arrivo, percepiamo solo la nota che ci fa giungere a destinazione e su quella ci aggrappiamo e immaginiamo di sentire una melodia, ma in realtà è un brano che potrebbe essere stato scritto per clavicembalo, per chitarra, la chitarra antica, un brano che è un fortissimo omaggio alla musica della scuola napoletana, un omaggio armonico, un percorso armonico che recupera un carattere che potremmo trovare in Scarlatti. Accattivante, ma non c'è una melodia, c'è una nota di arrivo come nella parte A di Per Elisa. Quindi è un vero e proprio omaggio alla musica dei decenni precedenti che arrivava dalla scuola napoletana. E se Für Therese è pensato per Teresa Malfatti, è dedicato a una viennese a tutti gli effetti, ma di origine napoletana, beh, è proprio un bello omaggio alla scuola napoletana dell'opera italiana del Settecento. Però poi improvvisamente cambia con la parte B. Viennese. È quasi un'unione tra la scuola napoletana e un cambio drastico e una danza tipica della nobiltà viennese dell'epoca. Poi ritorna la parte A, come appunto in un rondò che si rispetti, e poi la parte C. Questa parte C che ha un accompagnamento che è soltanto una nota ripetuta. Sembra un brano per il teatro. È quasi il teatro drammatico di Mozart, con una mano sinistra minacciosa. Abbiamo quindi tre elementi. Quello che era una memoria di un teatro napoletano, una scuola napoletana, l'inserimento di una danza nobile della Vienna tra 700 e 800, e poi una memoria del dramma, atteso come sentimento emotivo, che poteva essere dal teatro mozartiano. Tutto questo nello spazio di 3 minuti, in un brano che effettivamente Beethoven per pudore non diede alle stampe. Ci pensò un editore di qualche decennio posteriore, però un brano che soprattutto con l'avvento dei mezzi di riproduzione, i vinili e poi la radio, la televisione, beh, un brano che è diventato quasi musica leggera. La musica leggera perché? Perché chi si ferma ad ascoltare Per Elisa? E quando ero bambino, e in questa stagione di concerti splendida, un grandissimo pianista eseguì come bis Per Elisa, beh, mi sembrò veramente un impoverimento incredibile, dimenticando tutto che quel brano portava dentro. Un vero e proprio piccolo oggetto d'arte. Ecco, ora vi faccio sentire un altro brano, lo accosto a Per Elisa perché è un brano che, come il preludio di Bach, come la parte A di Per Elisa, è un brano fatto di arpeggi, prevalentemente di arpeggi. È un brano di Brahms. Ecco, questo è una delle ultime opere, è un intermezzo. Brahms arrivò ai primi anni 90 avendo scritto brani per pianoforte in gioventù, quando il virtuoso era anche il compositore delle opere che presentava in pubblico. Poi lasciò la composizione per pianoforte per dedicarsi a quel patrimonio fantastico che è stato tutta la musica da camera, sinfonica e corale. Non si pensa mai a quanto Brahms ha scritto per coro, ma ha scritto dei veri e propri capolavori. Solo negli ultimi anni, con Clara Wieck, di 14 anni più anziana, con Clara Wieck ormai arrivata agli ultimi anni di vita e un Brahms non anziano, ma comunque un uomo maturo, ritorna al pianoforte e scrive brani che intitola Intermezzi, Fantasie. Però scrive questo intermezzo dicendo a Clara, scrivendo a Clara che continuava a vivere in un'altra città, ma che vagliava tutte le opere che Brahms scriveva, anche le più piccole, anche i canti, i lieder. Le scrive che è un brano talmente intimo che in teoria non dovrebbe avere nessun ascoltatore. Ora, chiaramente non è una forma di falsa modestia, è forse come chi scrive un diario, e che in realtà è un brano di una carica emotiva fortissima. Sentirete che c'è una melodia, si riconosce, ma in realtà è una melodia che viene fuori dalle note di un arpeggio, come in Bach, come in Beethoven per il Fiorelise. Ecco, questo è l'intermezzo opera 117, numero 2. E quelle note noi le sentiamo come una linea melodica che ci porta avanti lungo il percorso del brano. In realtà non è una melodia ben pronunciata come avverrebbe in Chopin, in un certo Liszt. È una melodia estremamente interiore, qualcosa che è lì, è presente. È come un discorso fatto forse con la mano davanti alla bocca o davanti al viso, per pudore. È un brano del Brahms già maturo. E allora mi ha in qualche modo incuriosito. Il brano da non ascoltare, perché anche per Elisa è un brano in teoria talmente celebre che non lo ascoltiamo. In pratica lo ascoltiamo come un passatempo. Con Brahms ci troviamo di fronte a un brano che è una confessione intima, estremamente riservata. Non ascoltiamo praticamente per Elisa, quasi, perché è troppo conosciuta. È un brano che invece è denso di tanta musica, che è quasi da non ascoltare perché è andare troppo dentro alla confessione di chi sta parlando. Ecco, ci sono altri brani che sono talmente conosciuti o hanno in qualche modo preso un'onda di tale popolarità che ascoltiamo quasi senza preoccuparci troppo di quello di cui sono portatori. Uno di questi brani è un notturno di Chopin che è stato usato da un regista celebre, Roman Polanski, per un film Il pianista. Al di là del lato emozionale del brano accostato a una trama così drammatica, è impressionante pensare come la musica che Chopin scrisse per i salotti parigini delle prime decadi dell'Ottocento sia stata talmente assimilata e vissuta come qualcosa di talmente importante per il popolo polacco che che quando il 1 settembre del 39 venne invasa la Polonia, la radio polacca trasmise per tutta la notte e il giorno seguente musica di Frédéric Chopin. E se vogliamo una cosa molto romantica, ma evidentemente il dramma di quel momento andava oltre le parole e evidentemente quanto di meglio di brani di un compositore così radicalmente legato a una terra, pur avendola vissuta da lontano, potevano in qualche modo manifestare il dramma che in quel momento si stava vivendo. Che vanno a comporre una colonna sonora sono brani estremamente a rischio, perché la colonna sonora fondamentalmente deve essere qualcosa che non ascoltiamo, qualcosa che dà valore alle immagini, a parte certe melodie che fanno parte della parte iniziale, i titoli di testa, i titoli di coda che sono rimasti celeberrimi, certe melodie di Morricone, di altri, però fondamentalmente la parte musicale all'interno di un film non deve essere così invadente da coprire quello che sta avvenendo nella scena. Ecco, pensare che un brano del genere, un notturno di Chopin, possa essere una colonna sonora, rende questo notturno estremamente a rischio di superficialità nell'ascolto. È un notturno che Chopin scrisse arrivato da poco a Parigi e che mandò alla sorella Ludovica, rimasta in Polonia. Lo mandò tra l'altro abbozzato. C'è una parte dove tace la mano destra, rimane soltanto la mano sinistra. Dove una melodia non c'è, una melodia vera e propria. Era il periodo in cui Chopin, arrivando a Parigi, cominciava a entrare nei salotti, a conoscere l'opera, famosa quell'epoca, l'opera di Bellini, l'opera italiana, non solo Bellini. E quest'idea della linea melodica, sorretta da un accompagnamento, anche se vogliamo, piccolo, solo funzionale, come nelle arie belliniane, un accompagnamento che segue il canto, come viene scritto sugli spartiti per canto e pianoforte delle opere liriche, soprattutto di quel periodo. Cioè un accompagnamento che segue i movimenti fantasiosi della linea melodica. Un brano che Chopin manda alla sorella e quindi carico di tutta un'intensità emotiva che in una colonna sonora può essere dimenticata e vissuta come una linea melodica toccante in funzione delle immagini. Ora vi faccio sentire un altro notturno, scritto negli ultimi anni di vita. È il notturno opera 55 numero 1. Vedete come il linguaggio, che non si rifà più a un'idea, a un'impressione ricavata dal bel canto italiano, è sempre sì di una linea melodica sostenuta, però una linea melodica che è quasi un racconto, è quasi una ballata epica, tra l'altro divisa in tre parti. Una prima parte molto cantabile, una seconda parte quasi drammatica, quello che non c'è nel notturno di prima, che non troviamo in quel notturno, non lo troviamo nei notturni, l'opera 9 numero 2. Il canto comincia in questo modo, ma prosegue sempre con una linea estremamente dolce. Qui invece troviamo una parte B quasi drammatica. Associamo sempre i notturni a un'idea di dolcezza, di cantabilità sognante. Qui c'è una prima linea melodica, sì, sognante, quasi un racconto, è quasi un cammino. Una parte B però che è estremamente tormentata. Poi ritorna la parte A e si va a chiudere con una parte che è quasi una fioritura di quanto raccontato prima. Questo, come tanti altri notturni, che, come in Per Elisa di Beethoven, è diviso in parti e sono a volte parti estremamente contrastanti tra di loro. Quindi una parte A, una parte B più drammatica, una ripresa della parte A e una coda, che è una variazione della parte B, quella più drammatica, ma che a poco si alleggerisce per arrivare a chiudere. Tutto questo dentro uno di quei brani, il notturno, che fondamentalmente ascoltiamo come qualcosa di piacevole, qualcosa che presenta una linea melodica molto chiara come nel notturno precedente, e a volte non notiamo quanto dentro sia carico di movimenti narrativi, a volte anche estremamente contrastanti tra di loro. Immagino che questo notturno, forse solo qualcuno di voi che ha l'abitudine di sentire tutto l'integrale dei notturni lo ricorda, ma non è uno dei notturni più celebri, anche se è uno dei più importanti dal punto di vista del contenuto espressivo architettonico. Certo sembra più accattivante il primo, quello scritto a 20 anni, quello scritto a 35 anni, qualche anno prima della morte, in realtà sembra quasi più pesante, ma perché il racconto è un racconto più pesante. Però se noi pensiamo ai notturni, pensiamo a qualcosa che in qualche modo abbiamo già identificato come brani che possono essere anche una colonna sonora e quindi anche in qualche modo brani tra virgolette da non ascoltare. Da non ascoltare non nel senso da non ascoltare punto esclamativo, ma brani che possono anche essere fruiti senza ascoltarli. Quasi quello che Brahms chiedeva per il suo brano, l'intermezzo, ma con lo spirito opposto. Ecco, ora, per andare a poco verso quello che è il Novecento, vi parlo di una mazurka di Chopin. È un brevissimo brano. Vi parlerò di questa mazurka perché la cosa che mi colpì di questa mazurka era la parte dell'accompagnamento, quella della mano sinistra. La parte armonica era una parte accordale che a me ricordava certi movimenti armonici del jazz. Non un jazz ritmico, un jazz piuttosto morbido. Ci sono dei movimenti cromatici. C'è un'altra di queste mazurche, che è una delle prime, tra l'altro. Ve la accenno soltanto. Thank you. evidente che nulla ha a che vedere con il jazz. Però questa ricerca del cromatismo armonico è quello che poi caratterizzerà tutta la produzione cantabile di una certa musica, chiamiamola da intrattenimento, del Novecento. E quindi quando mi viene data questa mazurka mi stupì del fatto che stavo studiando qualcosa che sì, mi faceva piacere, era Chopin per Bacco, però c'era sotto qualcosa di armonico che sembrava di suonare una canzone. In realtà non si tratta di una canzone, è l'ultimo brano scritto da Frédéric Chopin, scritto poche settimane prima della morte, nel 49, in parte solo abbozzato, completato nel periodo seguente alla morte di Chopin da musicisti della cerchia di amici di Chopin, e poi pubblicato ancora con un numero d'opera legato alle opere pubblicate in vita, fino all'opera 68, sono tutte opere pubblicate con Chopin in vita. Avete ascoltato? Guida all'ascolto della musica classica, 3 secoli di creatività musicale. A cura del professor Stefano Malferrari. Trasmissione realizzata da Radio Città Fujiko in collaborazione con l'Università Primo Levi e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.